Dal 23 giugno al 30 luglio torna a San Francesco Estate, musica e teatro in piazza. Noi siamo qui per parlarne con Elena Di Gioia, delegata alla cultura del Comune di Bologna. Buongiorno Elena e bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno, bentrovata e a chi in ascolto. Quindi si rinnova, possiamo dire ufficialmente, per il terzo anno consecutivo il sodalizio tra ERT e il Comune di Bologna. Sì, assolutamente, questo sodalizio si rinnova e si rinnova anche la scelta di connotare una delle piazze anche più amate, diciamo, in città che abbiamo, che è Piazza San Francesco, e di connotarla nel segno del teatro e della musica, in particolare con tanti spettacoli. Saranno 18 in 6 weekend, dal venerdì alla domenica, e con tanti protagonisti della scena nazionale e anche della nostra città, appunto, per teatro in particolare e per musica. Quindi sarà un'occasione, insomma, di ritrovarsi in piazza nel segno di una programmazione, appunto, teatrale, che è una delle colonne, insomma, anche portanti della programmazione di Bologna Estate. Ecco, citavi anche tu le piazze. Devo dire che le piazze di Bologna sono protagoniste dell'estate bolognese, come Piazza San Francesco, ovviamente, di cui stiamo parlando adesso, ma in realtà non è, appunto, l'unica. Penso, insomma, Piazza Maggiore, già occupata dal cinema, ma tante altre in realtà. Assolutamente sì, diciamo che la città intera, ecco, si festivalizza, nel senso che fa festa con la forza dei linguaggi culturali e anche con la bellezza, insomma, anche di ritrovarsi nello spazio pubblico. Da poco abbiamo anche concluso la prima edizione di Bologna Portici Festival, dove proprio su alcune piazze per la prima volta le abbiamo riscoperte, fatte riscoprire in chiave di piazze culturali. Penso per esempio a Piazza della Pace in zona Stadio Certosa, insomma una piazza solitamente, appunto, non adibita a spettacoli. Ecco, io credo che nella politica culturale, anche nella programmazione estiva, la responsabilità delle piazze, dei luoghi urbani in cui portare urbani pubblici in cui portare cultura in maniera assolutamente policentrica, diffusa sulla città, sia un grande segno, e anche consolidare, appunto, le piazze che si hanno creato un solco importante, come appunto San Francesco Estate in Piazza San Francesco. Perfetto, grazie mille Elena, e ripeto ancora una volta, dal 23 giugno inizia questa bellissima programmazione in Piazza San Francesco, quindi insomma ci vedremo lì. Senz'altro, ci vediamo in piazza, appunto, ed estate. Ciao, grazie.